Se misuriamo i danni economici effettuati da questa doppia recessione, quella molto, molto violenta che è cominciata nella fine del 2007 ed è finita a metà del 2009, con un calo cumulato del PIL di oltre il 7%, e quella che stiamo vivendo adesso con un calo del PIL che sarà diciamo dell'ordine del 2,7%, se mettiamo insieme l'anno in corso e il prossimo, francamente un calo del PIL di questa dimensione non si è mai visto in tempi di pace, e quelli che sono stati colpiti sono i giovani in termini di posti di lavoro, di occupazione, prospettive occupazionali, e il settore manifatturiero, che è quello più esposto al calo della domanda all'interno dell'intera Unione Monetaria Europea, non soltanto in Italia. Tu citi giustamente l'Europa, insomma il contesto. Quanto può pesare l'esito del Consiglio europeo di oggi e domani, di cui parleremo alle 18.30? Ma credo francamente che questo Consiglio non finirà né oggi né domani, ma finirà alla mezzanotte del 1 luglio. I temi sul tappeto sono importantissimi, sono vitali, e le divergenze sono ancora molto ampie. E quindi credo che ci vorranno i tempi supplementari, per usare una metafora calcistica, e solo in zona Cesarini, prima della riapertura dei mercati, si arriva a un dunque, e deve essere un dunque però questa volta importante. Non ci sarà la possibilità di annunci soltanto o addirittura annunci che poi vengono smentiti da dichiarazioni e da quella che oggi è stata chiamata da un relatore al nostro seminario cacofonia, perché i leader europei parlano lingue diverse, interpretano in modo diverso le stesse cose, e quindi di fatto danno la sensazione di una totale mancanza di leadership e di una disgregazione che è politica ancor più che finanziaria ed economica. Questo non possiamo permettercelo, le conseguenze sarebbero gravissime, le perdite in termini di aziende, risparmi, posti di lavoro, e non parlo d'Italia, parlo dell'Unione Europea nel suo insieme, compresa la Germania, sarebbero enormi.